Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi. Due di denari. Conducono l'aedo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, una piccola domanda. Io ho una pizzeria. Dovesse capitare malauguratamente che di colpo dicessero basta, chiudiamo tutto, facciamo 15 giorni di quarantena forzata per tutti a casa. I miei latticini che fine fanno? Ma io sono veramente sconcertata. Una persona che ha una pizzeria non sa che la mozzarella si può congelare. Io sono anni che la congelo e è buonissima. Forse era un produttore di latticini. Ragazzi, sveglia! La pizzeria ha delle regole dell'ASL, non siamo a casa dove prendi la roba e la surgeli, bisogna seguire la linea del gelo, se una cosa esce congelata dal grossista la puoi surgelare, se no no, sveglia, sveglia! Allora, è partita anche questa difficoltà di comprendere che si può fare con la mozzarella. Devo dire, è arrivato un DPCM, cara Debora, so che ci stai seguendo, sì. So che sei in linea, sì. Dalla ci tua sono, casuccia buongiorno. Trasformata per l'occasione in uno studio radiofonico. Buongiorno Mauro, io ci sono. Buongiorno. Io ci sono, mi sentite? Ti sentiamo sentite? Forte e chiaro. Ti sentiamo mi forte e chiaro. Mi fa molto piacere. Eh sì, stavo anch'io riflettendo su questa circostanza che si è generata ieri, sono i nuovi problemi ai tempi del coronavirus e chissà quanti ne dovremo conoscere nei prossimi giorni, però ieri purtroppo abbiamo anche un pochino, non dico offeso, ma impermalito Silvio, che è il ragazzo, il primo ragazzo che ci ha mandato quel messaggio, che poi ha tenuto con una mail successiva anche a precisare tutti i termini del suo problema e naturalmente ha ragione, forse noi abbiamo voluto un po' eccessivamente sdrammatizzarlo, non conoscendo bene i problemi che in questo momento possono abbattere anche questo settore, però poi lui ci ha tenuto a scriverci precisandoci alcune cose, Mauro. È vero, allora lui ci ha precisato quello che in realtà anche qualche altro ascoltatore si era già premurato di dirci, come abbiamo potuto sentire. Allora, ci sono delle regole che uno deve seguire se fa un'attività di ristorazione e quindi, ad esempio, tra queste regole la possibilità di surgelare cose che già sono state surgelate non è prevista, anzi è certo. Vietato. Allora, diciamo è chiaro che non lo facciamo neanche noi a casa, no? Di solito non andrebbe fatto. Quindi, adesso giustamente. Non vorrei però che ci concentrassimo così tanto sulle mozzarelle, per quanto anche le mozzarelle hanno la loro importanza, ma giustamente scrive un ascoltatore al 349-23 86666, perché comunque i nostri numeri sono aperti, sono a vostra disposizione. E dice: vabbè, adesso per due mozzarelle dobbiamo fare tutto questo. No, effettivamente, però, le due mozzarelle stanno a significare anche la difficoltà in cui ci dibattiamo in questa ridda di informazioni. Comunque, chiediamo scusa a Silvio se abbiamo sottovalutato il suo problema, non era nostra intenzione. E chiediamo, come dire, anche ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno voluto precisare quelle che sono delle regole per chi fa attività di ristorazione e che purtroppo però da oggi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri annunciatoci ieri, ecco, non avrà più di questi problemi fino al 25 marzo, cara Debora. Allora, a proposito di problemi, andiamo subito al cuore di quello che in qualche maniera tenteremo di affrontare questa mattina. Dove stanno andando a finire i nostri risparmi, i nostri investimenti? È ufficialmente iniziata la stagione dell'orso sui mercati finanziari. Le percentuali di ribasso delle borse di questi giorni ce lo stanno indicando ormai ufficialmente e visto che oggi è giovedì non potremo che approfondire questo argomento qui a Due di Denari con due ospiti. Oltre a raccontarvi quello che sta succedendo, ma lo leggete costantemente su tutti i giornali, soprattutto per gli appassionati di questo argomento. Oggi ci concentreremo anche sull'attualità, perché ci aspettiamo molto dalla Banca Centrale Europea, che si riunisce oggi. Il mercato punta tutto sulle iniziative di Christine Lagarde, che già ieri ha detto di essere molto preoccupata rispetto a questa crisi, che potrebbe essere forte, se non addirittura più grave di quella che abbiamo già vissuto nel 2008, solo per parlare dell'ultima più seria. Prima di tutto questo però, Mauro, so che è il caso, sì, che lo abbiamo concordato insieme, ma in realtà è una tua iniziativa per la quale ti ringrazio, io ti seguo molto volentieri. Dobbiamo fare un po' di ringraziamenti in queste giornate abbastanza problematiche, ma che cerchiamo anche noi di portare avanti con il nostro lavoro. A chi toccano? Questa volta i ringraziamenti per quanto riguarda il nostro lavoro, cioè quello tuo e mio, vanno soprattutto alla tutta la parte di Information Technology e l'area tecnologica qui al gruppo del Sole 24 Ore e a Radio 24. Allora, in disordine, noi vogliamo davvero dirvi che siamo grati agli assistenti come Marco Lombardo e tutti gli assistenti che comunque stanno dando la possibilità sempre di andare in onda. Siamo grati ovviamente e li ringraziamo ai tecnici che stanno in regia presenti e ci garantiscono la possibilità di andare in onda, e poi a chi si occupa proprio dell'architettura di IT, di Information Technology qui in radio, Sandro Fortunati e Danilo Alicino, e poi per tutto il gruppo, tutto lo staff di Team Price, di Vittorio Vignati e tutti i colleghi dell'Help Desk, che veramente stanno facendo turni massacranti per stare al passo con le tantissime nostre richieste. Ovviamente noi giornalisti vogliamo assolutamente continuare a produrre le nostre notizie, a darvi informazioni per radio, per il sito, con il quotidiano, insomma in tutti i modi qualcuno ci sta consentendo di farlo. Sono queste persone che voglio ringraziare. Certo. E poi per quello che riguarda lo staff tecnico dei ragazzi che ci consentono di andare in onda, ringraziamo per tutti Michele Previato, appunto, che li coordina per quello che riguarda appunto il suo ambito di competenza. Senti, io sono a casa, quindi stamattina ho potuto divertirmi un po' anche a cercare qualche notizia per il nostro giornale radio del risparmio. Non penserei mica di non farlo stamattina. No, è come in scaletta, qui rigorosamente è previsto. Andiamo. Allora andiamo. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Allora, quando mi sentite, sì, quando si dice il timing, questa mattina ci ridevamo con Mauro, certo, quando arrivano delle richieste che sono un po', come dire, fuori tempo massimo, diciamo così. Che cosa è successo in Europa che ancora una volta ci bacchetta per questione di turismo? Sì, allora facciamo una precisazione. L'Europa ha ragione, anzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ragione, non ha ragione, ha straragione. Nel 2008 ci hanno detto che alcuni aiuti concessi al settore alberghiero in Sardegna, da noi, Stato italiano, erano illegittimi e avremmo dovuto recuperarli. Correva l'anno 2008. Probabilmente ci siamo dimenticati, avevamo da fare, ci sono state altre cose nel frattempo. Insomma, non abbiamo mai avviato il recupero di questi 7 milioni e mezzo di euro. E allora a questo punto la Corte UE dice basta, ci siamo stufati, adesso non solo li dovete ridare, ma vi diamo anche una penalità di 80.000 euro. Allora, ripeto, certo, hanno ragione, ma proprio adesso ci venite a chiedere indietro i soldi per aiuti al turismo. Forse un momento così di pensiero nel diffondere la decisione non ci stava male, per carità, diciamo, lo dico nel mio piccolo. Forse la Corte di Giustizia non aveva avuto modo ieri di seguire il bel messaggio che in lingua italiana ci ha mandato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e quindi, come dire, un po' non si sono coordinati evidentemente ai piani alti dell'Unione Europea. Non hanno sentito il messaggio. Esatto. Allora, le banche, Deborah. Le banche, allora questa è molto importante di notizia da dare. Noi, come sapete, ieri il governo ha messo in campo 25 miliardi di euro di iniziative che verranno comunicate nei prossimi giorni per sostenere tutta l'economia in questa fase veramente complessa e difficile. Ci sarà un primo pacchetto di provvedimenti che verrà varato venerdì, con una prima tranche che varrà credo intorno ai 12-13 miliardi, poi conosceremo anche successivamente gli altri provvedimenti. Ci sono molte persone, ce lo stanno anche chiedendo succedendo, addirittura persone che conosciamo, colleghi, tante persone che ci scrivono vogliono sapere che cosa succederà sui mutui, visto che c'è questa promessa di sospenderli per molti mesi per tutti, per imprese e per privati. Per quello che riguarda però i finanziamenti e le imprese, c'era già un'iniziativa in corso, una moratoria da parte dell'Associazione delle Banche Italiane, da parte di tutte le banche italiane, e ci sono iniziative di allungamento di questa moratoria. Con le nuove moratorie è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 appunto la possibilità di chiedere la sospensione e l'allungamento. L'ABI l'ha fatto sapere nei giorni scorsi, lo ridiciamo di nuovo, e a quello che sappiamo appunto fino ad ora il 93% delle banche italiane ha comunicato naturalmente di aderire a questa nuova moratoria, per cui un'iniziativa per le imprese c'è già, verrà presumibilmente rafforzata, arriveranno iniziative per i privati, per i singoli, per le famiglie, e quindi questo è quanto sappiamo, però sappiate che d'ora in avanti la banca deve darvi un po' più retta. Peraltro ci saranno anche e ci sono anche iniziative di sospensione per quello che riguarda i canoni di leasing, perché anche su questo settore ci avevano chiesto dei chiarimenti, per cui tutto il mondo del credito si sta mobilitando ovviamente per sostenere quanto più possibile in questo momento tutti, perché tutti siamo in ballo in questa situazione così problematica. Si mobilita anche l'INPS, che ci segnala di avere potenziato ulteriormente i canali telefonici e telematici a servizio dei cittadini. L'INPS ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso potenziamento di canali telefonici e telematici, in modo da assicurare integralmente il servizio dallo sportello telefonico provinciale, quindi attivi, dice l'INPS, con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico 8:30, 12:30. E poi il contact center nazionale, numero che da rete fissa per l'INPS 803-164 da rete fissa, oppure dai telefonini, da telefonia mobile 06-164-164, potete contattare l'INPS anche via contact center. Potete naturalmente contattare anche Radio 24 800-24-0024 se volete intervenire in diretta. L'altro numero ve l'ho già ricordato, ma ripetita iuvant, come diceva il mio professore di latino, 349-238-6666. Mm-hmm. Deborah, ci sono... prego, sì. Prego. No, volevo solamente rendere così, condividere con gli ascoltatori anche questa notizia che arriva da una comunicazione che ha fatto ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha detto appunto, mentre stavamo aspettando il nuovo provvedimento nazionale da parte del governo, Sala ha comunicato appunto di aver firmato un'ordinanza che contiene invece le prime misure economiche a favore dei milanesi. Vedremo se anche questa iniziativa si estenderà per quanto possibile sul territorio nazionale. Sala ha comunicato di aver stabilito l'esenzione del pagamento per i mesi di chiusura straordinaria dei nidi e la proroga del pagamento della frequenza degli stessi del mese di gennaio al 30 aprile. Anche questa era una questione che ci è stata sollevata da tante famiglie, sia di ascoltatori ma anche di tante persone che conosciamo, per cui si viene incontro anche a tutto questo sistema che è in grossa difficoltà, le famiglie perché pagano rette di servizi di cui non fruiscono e le scuole che non teoricamente appunto devono pagare, le scuole, i nidi, le scuole materne che devono pagare lo stesso i propri dipendenti, e proprio per questo motivo ovviamente non possono restituire le rette di famiglie che hanno già pagato, per cui il solito cane che si morde la coda. Sala ha preso questa iniziativa oltre a tutte le altre che ha preso appunto per il territorio milanese, ma questa ci pareva particolarmente importante appunto da segnalare, perché le famiglie che hanno già effettuato il pagamento, ha ancora proseguito Sala, dell'intero anno avranno diritto al rimborso dei mesi di chiusura. Interviene il comune, mi sembrava importante, Mauro, segnalarlo. Lo è. Evo, allora abbiamo voluto così stigmatizzare un pochino rispettosamente la decisione della Corte di Giustizia Europea, ne segnaliamo però un'altra che in questi giorni potrebbe anche essere di conforto, perché la Corte di Giustizia ha detto che un passeggero aereo, che già aveva ricevuto una compensazione perché gli era stato cancellato il volo, era stato protetto, cioè riprogrammato su un altro volo, ma questo altro volo era in ritardo. Allora lui ha chiesto di essere rimborsato, di avere una compensazione pecuniaria per questo ritardo. La Corte di Giustizia, confermando il suo approccio che è sempre molto pro passeggero, pro diritti del passeggero, ha detto sì, allora